Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Benvenuti nell'era del consumatore 2.0, il consumatore reloaded. Scopriremo il significato di questa definizione tra pochissimo. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Questo è l'argomento dell'approfondimento della settimana di Essere e Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Parleremo poi del problema dell'assortimento nella grande distribuzione e per il focus sui trend di teen style, quando gli adolescenti fanno tendenza. Ma iniziamo come sempre dalle notizie e curiosità della settimana. 30 anni dopo lo storico cubo arriva il nuovo rompicapo firmato Rubik. 3 sfere trasparenti concentriche e 6 palline da far passare in soli 2 fori. Rubik 360 arriverà nei negozi in agosto. Una città del futuro, ecosostenibile, completamente illuminata da pannelli fotovoltaici, sarà realizzata in Giappone e si chiamerà Azabu no Oka. Sviluppata da una società che fa capo alla Toyota, presto si potranno acquistare case e appartamenti. Lenti di ingrandimento sugli scaffali per leggere le etichette. Con lo slogan «Cresce il gusto di vederci chiaro», Naturasi, principale catena di biosupermercati in Italia, lancia l'iniziativa a favore della spesa consapevole. Sarà la Saci & Saci a promuovere l'immagine internazionale del nuovo Kosovo indipendente. La grande agenzia pubblicitaria britannica si è aggiudicata un contratto di quasi 6 milioni di euro. Dovrà creare un logo e una campagna mediatica ad hoc. Le Small Entities, i piccoli oggetti di design per la cucina disegnati da Marco Maggioni per l'italiana Mebel, entrano al MoMA di New York. Il prestigioso museo ha deciso di esporre in forma permanente 3 prodotti della linea lanciata per i 50 anni dell'azienda. Tacchi bassi, poco rossetto, niente smalto, pochi gioielli e al bando le borse oversize. È il look da ufficio che la Banca d'Inghilterra ha caldamente suggerito alle proprie dipendenti con un seminario. Sessismo istituzionale, denunciano gli esperti. La borsa della spesa. Il consumatore multicanale, quello cioè che si informa su internet, partecipa ai social networking, si scambia informazioni sui blog, è in rapida crescita. È il consumatore al centro di una vera e propria rivoluzione, come emerge dalla seconda edizione dell'Osservatorio Multicanalità, firmato dalla School of Management del Politecnico di Milano in collaborazione con Nielsen e con Nexia. Hanno superato quota 7 milioni i consumatori italiani multicanale, cioè quelli la cui decisione d'acquisto e relazione con la marca sono determinate dall'interazione con più canali di comunicazione. Sono i cosiddetti consumatori reloaded, in crescita di oltre il 30% rispetto al 2007. Una delle ragioni fondamentali alla base del fenomeno sta nel fatto che internet non è più solo prerogativa dei target giovani, ma attrae anche le fasce più mature della popolazione. Dei 22 milioni di navigatori italiani, la fetta maggiore, il 63%, è rappresentata dalla fascia adulta, 25-54 anni, che corrisponde al target più forte di consumatori, quello con la maggiore autonomia di decisione nei processi di acquisto. Internet costituisce la principale fonte di ricerca per il 21% della popolazione. Molti consumatori, il 23%, si recano in negozio per vedere e provare un prodotto che poi acquistano online. Anche i blog e i social network giocano un ruolo importante nel processo d'acquisto. Il 27% dei consumatori legge opinioni di altri su forum e blog e il 15% dichiara di non comprare un prodotto dopo aver letto un giudizio negativo. Ma in Italia la multicanalità passa soprattutto dal telefono cellulare, che registra un livello di diffusione maggiore del personal computer e un tasso di penetrazione fra i più elevati al mondo. 50 milioni di utenti con età superiore ai 15 anni, pari al 98% della popolazione. Il consumatore italiano dunque è sempre più propenso alla multicanalità, ma le aziende italiane tardano invece a coglierne le opportunità. Restano legate a logiche tradizionali di interazione con i consumatori, ci dice Andrea Boaretto, coordinatore dell'Osservatorio Multicanalità per il Politecnico di Milano, che sottolinea il marketing deve cambiare. Il marketing deve cambiare e la parola chiave è interazione multicanale contestualizzata, ovvero specifica a seconda degli specifici contesti in cui un consumatore si trova. Di conseguenza diversi strumenti possono fornire interazione contestualizzata, non solo internet che già conosciamo, ma innanzitutto il mobile, che è il mezzo più penetrato in Italia. E mobile per il consumatore significa non solo SMS pubblicitari, ma anche un coinvolgimento attivo attraverso il mobile internet o attraverso altre funzionalità evolute del cellulare. Infine, ma non da ultimo, il punto vendita. Il punto vendita, che è la prima fonte di advertising preferita dai consumatori, dall'80%, che vogliono un coinvolgimento non solo con attività tradizionali, ma anche attraverso tecnologie di prossimità, digital signage, il Bluetooth, camerini virtuali, totem interattivi, che consentono di avere un'interazione contestualizzata in punto vendita, vicino quindi al punto di informazione e di consumo. Cambiamo argomento, parliamo di uno dei nodi da sciogliere nella grande distribuzione alle prese con nuovi modelli di business. Sentiamo qual è dal direttore di Markup, Luigi Rubinelli. Eliminare parte dell'assortimento è una domanda figlia della crisi ma anche dei mutati comportamenti di acquisto. Già negli anni 90 molti negozi di abbigliamento avevano scelto la riduzione drastica dell'assortimento e quindi del servizio al consumatore. Le taglie troppo piccole e troppo grandi erano state bandite dai negozi, così come la profondità dell'offerta stessa, meno drop e meno varianti colore. L'assortimento si inchinava in questo modo al costo finanziario dello stock, che via via negli anni era cresciuto. Alla fine degli anni 90 capitava lo stesso nei negozi di calzature, meno modelli, uno poco diverso dall'altro e più differenziazione. Il risultato è stata una riduzione dell'assortimento. In questi mesi l'interrogativo se ridurre o meno l'assortimento è arrivato nel largo consumo nei supermercati e ipermercati, complice un calo delle vendite in volume significativo e controtendenza. Ogni anno vengono lanciati nel mercato, dicono le statistiche, circa 25.000 nuove referenze. I flop sono poco più di 17.000 e i prodotti che rimangono sulle mensole di supermercati e ipermercati sono appena 450. Guarda caso appartengono quasi tutte alle grandi multinazionali italiane o estere che più spendono nel supportarli e nel crearli. La diminuzione delle vendite e la diminuzione del margine stanno rovellando il cervello dei manager del largo consumo. Conviene ancora tenere un assortimento così largo e così profondo, visto che poi il consumatore di fatto è abitudinario e si concentra su pochi marchi e poche referenze ed è poco incline a provare il nuovo? Conviene ancora puntare su un servizio personalizzato nei banchi della gastronomia, della panetteria, della macelleria e della pescheria? O conviene portare alcuni reparti a self-service e risparmiare sui costi di gestione? Come i radioascoltatori ben capiscono, si tratta di scelte strategiche che condizionano il posizionamento e la sua percezione agli occhi del consumatore. Ecco che qua e là sono cominciate le prime sperimentazioni e con esse i primi dissensi da parte dei clienti. Riusciranno i consumatori, che sono anche dei veri e propri elettori in questo caso, a sopportare senza troppe proteste una simile inversione di tendenza? Mai più senza. Ha 171 tentacoli, ma non è una creatura marina, è un tavolo. È il pezzo cult della settimana a cura di Silvana Annichiarico, direttore del Triennale Design Museum. Un ripiano di vetro di forma varia, quadrata, rotonda, rettangolare, appoggiato su una serie di gambe flessibili colorate, di cui solo alcune sufficientemente rigide da fornire un vero e proprio appoggio. Con questo progetto, realizzato nel 2001 per Cappellini, Fabio Novembre, esponente di punta della nuova generazione di designer italiani, mette in discussione due dogmi del design del secolo scorso, quello della funzionalità e quello della stabilità. Le gambe di Org non necessariamente servono a sostenere il tavolo né a garantirgli una stabile collocazione nello spazio, eppure servono a definire l'identità dell'oggetto, la sua capacità di comunicare, il tipo di relazione necessariamente instabile, ondivoga, fluttuante, che instaura con l'utente. Antiminimalista, talvolta provocatorio, spesso visionario, Novembre ben esprime alcune delle tendenze del design italiano contemporaneo. Qualcuno lo giudica kitsch, qualcun altro cool, ma nessuno può negare l'inconfondibile impronta personale che segna e connota il suo fare progettuale. Essere e avere. Diamo subito il benvenuto a Patrizia Martello. Bentornata Patrizia. Grazie, buongiorno. Direttore di ricerca dell'Istituto di Consulenza GPF, docente di Sociologia dei Consumi e della Moda all'Università di Bologna, ci accompagna come sempre nell'analisi delle nuove tendenze che occupa tutta la seconda parte di Essere e Avere. Teen Style è il tema della puntata di oggi, tutta dedicata ai consumi destinati ai teenager. Un mercato molto forte che in momenti di crisi come quello che stiamo attraversando fa da traino per molti settori, consente di recuperare un po' di perdite e serve a lanciare prodotti che conquistano poi altri target di consumatori. Nella moda, ma non solo, insomma, è teen mania. Patrizia. Sì, oggi parliamo di teens o teenager, anagraficamente quell'età che va dai 13 ai 19, età in cui nelle lingue anglofone si usa appunto il suffisso teen nella numerazione, ma già sotto i 12 anni non si può più parlare di kids, ma si parla di pre-teen, pre-adolescenti. Questo consente al mercato, soprattutto fashion e soprattutto rivolto al target femminile, parliamo tra i 9 e i 12 anni, di proporre con successo prodotti quali reggiseni con taglia 00 e imbottitura, scarpe con tacchi, zeppe, stivali a metà coscia, hot pants, bambole come le Bratz o My Scene, che hanno un guardaroba assolutamente sessuato, che esiste poi anche nelle taglie vere per queste piccole dive, piccole lolite che di fatto sono bambine ma già vestite da adulte. Quindi quello tra pre-teens, teens è un confine molto poroso che si espande addirittura verso l'età adulta. Infatti anche per gli adulti il mercato concede infinite estensioni di dei desideri proprio adolescenziali, con prodotti che appunto vengono definiti childish, infantileggianti. Socialmente gli adolescenti, i teen, sono soggetti diciamo poco considerati, pensiamo a livello politico ma anche come soggetti civili, mentre dal punto di vista economico, come dicevi, sono un target, per usare questa brutta parola, molto succulento, soprattutto per i mercati maturi, leggi moda. Infatti sono una miniera di potenziali consumi attuali e futuri e hanno un'autonomia di spesa che interessa assolutamente tutti i mercati. Proprio per questo loro essere inafferrabili, transitori, anche molto sovversivi, no? Infrangono le convenzioni, i linguaggi, insomma, per le caratteristiche costitutive di questa specifica età, le aziende sanno benissimo che questi adolescenti cercano risposte a questa crisi permanente attraverso l'identificazione con prodotti e marchi. In Italia più del 60% dei ragazzi tra i 14 e i 18 ha soldi propri da spendere come desidera. Da un lato ricevono una paghetta settimanale stimata intorno ai 20 euro, ma per tutte le richieste extra la famiglia è comunque sempre disponibile e li sostiene. Circa un 30% risparmia e tutti gli altri spendono tutto in ricariche del cellulare. Pensiamo che il 91% dei ragazzi tra i 13 e i 18 ha un cellulare personale, e in acquisti moda, abbigliamento e accessori, che sappiamo sono importantissimi elementi di identificazione e di espressione del sé nel gruppo dei pari. In questo senso la marca è decisamente il fattore più influente nei loro processi di acquisto. Una delle tendenze più forti o più connotative in questo momento nel mondo degli adolescenti è il filone neo-dark, più correttamente emo, come si usa dire, riferendosi al controverso genere musicale neo-gothic che è diventato un vero e proprio fenomeno. Lo testimonia su tutti i titoli in circolazione il successo del film Twilight, 180 milioni di dollari di incasso in tutto il mondo, tratto dall'omonimo bestseller. Quanti anni hai? 17. Da quanto tempo hai 17 anni? Sei incredibilmente veloce. E forte. La tua pelle è bianchissima. E fredda. Io so cosa sei. Dillo. Un vampiro. Hai paura? No. Dal bestseller internazionale. Non ho paura di te. Questo non avresti dovuto dirmelo. Twilight. Patrizia, fenomeni come questi superano i confini del target di riferimento e si impongono poi come tendenze trasversali? Sì, certamente, anche perché, come abbiamo detto, il target ha una dilatazione verso il basso e verso l'alto. Spendo due parole su due diciture che trovo particolarmente significative. Una è twins, la crasi fra teens, e between, che rende bene l'idea di questo passaggio evolutivo, ma anche dell'essere tra delle età e dei momenti diversi della vita. Così come quarto sesso, una definizione di Francesco Bonami, che definisce l'adolescenza come stato mentale, tutto particolare, legato a un'identità anche sessuale, misteriosa, metamorfica, che di conseguenza travalica l'età anagrafica. Quindi molti prodotti dell'industria culturale chiaramente si riferiscono ai teens, ma poi spaziano nei dintorni. Cinema e televisione, rimanendo in tema di consumi culturali, rimangono dei media molto influenti sui teens. La TV in particolare continua a essere un grande attrattore, capace di creare molta dipendenza. Pensiamo alle serie TV, da OC a tutte quelle più famose, che interessano soprattutto anche gli adolescenti, quelli che vanno ben oltre i 30 anni, per esempio, ma i reality, soprattutto i programmi musicali, anche se poi il 30% dei teens, mentre guarda la televisione, manda sms e naviga su internet. Sappiamo che il 50% dei teens che naviga è membro almeno di un social network, a conferma che gli amici sono in assoluto la cosa più importante in questo specifico momento della vita, quindi i pari, la comunità. Una nuova serie di successo della ABC in Italia, in onda su Fox, è Vita segreta di una teenager americana, che sulla scia del successo del film Juno racconta le vicende di una quindicenne alle prese con problemi comuni e non comuni, come appunto una gravidanza subita che le sconvolge la vita. Vorrei sottolineare un elemento distintivo di questo target, e cioè che la tecnologia, i media, new media, il web 2.0, che ricordiamo si riferisce ai contenuti generati dagli utenti, sono per gli adolescenti un implicito, cioè sono elementi costitutivi dei codici relazionali che loro usano. Quindi siti come MySpace e YouTube vanno molto oltre la voglia di condivisione dei contenuti e investono molto profondamente dimensioni identitarie esistenziali. Ne è un esempio vimbi.com, Video in My Backyard, un sito in cui si trovano filmati anche molto belli, girati da adolescenti che, appunto, in qualità di nativi digitali, trovano nella rete, nel video, nelle immagini, i luoghi e i mezzi più adeguati all'espressione del sé, alla narrazione della propria biografia, alla descrizione del proprio ambiente, eccetera. Chiudo con una considerazione sulle modalità più efficaci per le aziende di istituire relazioni con i teens. Un modo, parlando di comunicazione advertising, è sicuramente il product placement, cioè l'inserimento di un prodotto o una marca in un film, in un video, soprattutto in un videoclip musicale, in un videogioco, in un libro, eccetera. Ebbene, gli investimenti sono in forte crescita, poiché se si crea un legame emozionale tra la storia narrata, i personaggi, il prodotto o il marchio inseriti, non solo, diciamo, non si cambia canale, non si cambia mezzo, ma si associa l'emozione del vissuto di quel contenuto al brand, e gli effetti sono noti. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo a Mosca su Teen Style e dintorni? È il momento delle nostre Urban Watcher di Memi. Elena Marinoli, bentornata. Buongiorno, sì, oggi parliamo di Kira Plastinina, una teenager in passerella che non è una top model, classe 92, Kira la mattina va a scuola e il pomeriggio fa la stilista. Il sogno di molte sue coetanee è diventato realtà grazie al padre, l'oligarca Sergei Plastinin, titolare della prima società alimentare russa ad essere quotata a New York in borsa. Oggi è un impero con un fatturato di 30 milioni di dollari e 48 i negozi monomarca tra Russia, Kazakistan, Los Angeles, New York, presto anche a Milano, dove comunque Kira si è già palesata a settembre scorso in occasione delle sfilate, arrivando dalla Russia con Love, amore, la sua collezione Prêt-à-porter. Il lettering del logo di Kira ricorda una delle tante scritte che potremmo trovare nel diario di una liceale. Rosa, shocking, con tanto di doppio cuore al posto del puntino delle I. Nell'immaginario di riferimento dei suoi capi si va da Lolita, naturalmente, a Barbarella, entrambe rivedute e corrette in salsa hip-hop. Si rivolge a un target compreso tra i 12 e i 20 anni, ma in realtà piace anche a tante adulte, in particolare a Paris Hilton, per la quale essere teenager non è più da un po' una condizione anagrafica, quanto una vera e propria professione. Grazie Elena. Patrizia, una fascia spesso inafferrabile quella degli adolescenti, dal punto di vista commerciale, come abbiamo detto, ma ovviamente anche relazionale. Le due cose in qualche modo si compenetrano. Diciamo che l'incomunicabilità adulti teens è il problema. E anche qui si è già aperto un mercato, un esempio su tutti, saranewton.com, che offre soluzioni a questo specifico problema di comunicazione, è diventata il nuovo faro soprattutto per molti genitori, fa di mestiere la teen coach, è autrice di bestsellers quali Help, My Teenager is an Alien, il mio figlio adolescente è un alieno, pubblica audiolibri e fa corsi di formazione online e offline appunto per facilitare la relazione adulti teenager. Finisce qui anche questa puntata di Essere Vere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Vi aspetto ogni domenica dopo il GR delle 13, in replica il sabato alle 15. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.